Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È nato a Roma nel 1980, esordisce nel cinema a 12 anni come protagonista del film di Castellano e Pippolo C'hai rotto papà. Studia recitazione negli anni del liceo, nel 99 partecipa al film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina e da quel momento inizia la sua vera carriera cinematografica. Da lì lavora con Ettore Scola, Emanuele Crialese, Gianluca Maria Tavarelli, Libero De Rienzo, Giovanni Veronesi, Michele Placido, Gabriele Salvatores, Paolo Birzì, Paolo Franchi, Daniele Vicari e con il film Mio fratello e figlio unico di Daniele Lucchetti si aggiudica il David di Donatello come miglior attore protagonista. Diretto ancora da Daniele Lucchetti, in La nostra vita riceve a Cannes il premio per la migliore interpretazione maschile ex aequo con Javier Bardem. Nel suo ultimo film, La fine è il mio inizio, interpreta il ruolo di Folco, figlio del giornalista Tiziano Terzani. Lui è Elio Germano. Lo conoscevo così come viaggiatore, ho letto in realtà Un indovino mi disse, dove in realtà poi già si apriva un'altra fase, però poi ho cominciato a leggere appunto Un altro giro di giostra e La fine è il mio inizio proprio mentre giravamo, durante la preparazione, prima che abbiamo cominciato a girare. Insomma è stato un viaggio bellissimo, no? Questo mestiere che faccio mi dà la possibilità di fare tante esperienze, essere tante cose, uno dei regali più grandi che mi ha fatto è questo, darmi la possibilità di stare 2 mesi in montagna a dedicarmi a queste questioni, quindi in realtà a dedicarmi a me, no? E a fare un viaggio realmente appunto necessario in realtà nelle vite di ognuno, che però siccome facciamo queste vite distratte da altre questioni non ci possiamo mai concedere. E quindi una delle cose più belle è stata questa, insomma. Folco, io so che questi ultimi anni non sono stati facili per te, la separazione e poi il divorzio, ma ho l'impressione che tu ti sia voluto allontanare un po' troppo dal mondo. Tu vieni a dire questa cosa a me? Proprio tu? E sei stato 3 anni in Himalaya? Sì, io mi sono isolato, ma alla fine della mia vita. Tu invece sei giovane, devi partecipare alla vita, devi agire! Un film che arriva in un momento storico in cui forse la riflessione sulla vita, sulla morte, su quello che è realmente importante, conta in modo particolare. Assolutamente, stiamo andando in direzioni assurde, no? Neanche appunto delle catastrofi così immani come quella che è successo in Giappone ci aiutano a fermarci un attimo, a riconsiderare le cose, quello che siamo al mondo, come stiamo impostando il nostro mondo, e addirittura un giorno dopo si arriva a bombardare la Libia o ad avere progetti di questo tipo su altre situazioni. Ecco, questo è un po' un simbolo, no, di quello che siamo diventati e della difficoltà che facciamo a considerarci parte di qualcosa di più grande, di più ampio, a considerare che siamo degli esseri umani che spariranno e ce ne saranno altri, a considerarci in un flusso di cose che cambiano e a considerare soprattutto la nostra mortalità. Ecco, quando succedono queste cose sembra che l'essere umano si sia dimenticato della sua mortalità, si senta invincibile, protagonista del mondo, e in realtà andiamo solo in direzioni appunto di convenienza, di ricerca di profitto in tutti i modi. Questo servire l'economia come se il nuovo Dio fosse l'economia, e ci sta portando a questo risultato, a questo tipo di essere umano, a questa forma di essere umano che secondo me appunto genera poi soprattutto infelicità. Babbo, io ne faccio di cose, ne faccio anche tante, magari sono cose che a te non piacciono, questa è l'unica differenza. Tu devi fare quello che vuoi, ma almeno una cosa concludila. Finora tu non hai mai concluso niente, tu hai il terrore di sbagliare, per questo eviti di agire. E scommetto che anche questa volta non ti sei posto il problema di finire quello che stavi facendo prima di venire qui da me, o no? E allora? Scusami, se preferisco stare vicino a mio padre, scusami tanto, Madonna. Tu fai la tua vita, ma non venire a dire a me quello che devo fare, va bene? Tu fai la tua vita, io la mia! A proposito di economia, il cinema è anche industria. Questa è una coproduzione italiana in un momento in cui il cinema italiano fa delle cifre enormi, ma solo con le commedie. Tu come vedi questa situazione? Ma chiaramente i film che incassano di più sono film di intrattenimento e di grande intrattenimento, questo in tutte le cinematografie. Diciamo che mentre il cinema di intrattenimento riesce a finanziarsi da solo, cioè a non avere bisogno di niente e di nessuno, proprio perché si affida ai grandi numeri, cioè la logica di un film del genere è quella di piacere, viene strutturato per piacere e quindi per incassare, ci sono altri film che invece vanno sostenuti e bisogna avere insomma il coraggio di appunto di sostenerli, di credere in questi film perché raccontano qualche altra cosa, forse qualcosa di necessario, di importante, che però di per sé non riesce a vivere solo grazie alla logica dell'incasso. Per cui quello che manca adesso in questo momento è un aiuto per tutti i film minori di ricerca, indipendenti, particolari, tutti i film che non mirano all'incasso soltanto, non si esauriscono con quello, non sono film di intrattenimento, ad esistere. E quello che sta succedendo adesso in Italia di drammatico è questo, cioè che non mancando un aiuto da parte dello Stato o un sostegno da parte dello Stato a quei film che senza l'aiuto dello Stato con pochissimi soldi vengono realizzati e che magari piacciono tanto in giro per il mondo, senza questo sostegno, ripeto, tutta questa cinematografia di cuore e di sincerità non può esistere. E se esiste non arriva alla sua finalità, che è quella di essere vista, insomma. Quindi a mio avviso quello che manca in questo momento è questo. Ma poi c'è un'altra cosa che volevo chiederti, una cosa che mi sta molto a cuore. Sai, gli indiani dicono che attraverso lo spegnimento dell'io si può arrivare a quella che loro chiamano l'illuminazione. E allora volevo sapere da te se secondo te gli illuminati esistono, non esistono, che cos'è l'illuminazione? Un'illusione. Quanti ne hai incontrati tu di illuminati? Io nessuno. Anzi, no. Forse questa è l'illuminazione, riuscire a vedere il mondo così com'è, a riconoscere la sua perfezione. Forse hai ragione tu. Elio, tu non riesci mai a separare il tuo impegno come attore dal tuo impegno sociale. Cinema, teatro. Quello che stiamo cercando qui di costruire è appunto quello, una serie di criteri che stabiliscano oggettivamente quale possa essere una persona più adatta per gestire un teatro e che poi garantiscano un controllo su come questa persona gestirà un teatro per in maniera appunto trasparente, in maniera che ogni cittadino possa anche oggettivamente, andando su internet, controllare i soldi come vengono spesi. Il teatro è una cosa di tutti, il teatro è della città, appartiene a tutti, per cui è un diritto della popolazione vivere nel teatro. Mi sembra da notare il fatto che in 22 giorni appunto persone che con le loro esperienze, quindi con le loro competenze di lavoratori dello spettacolo, di produttori, di artisti, di spettatori, abbiano trovato appunto delle risposte lavorando spontaneamente, dedicando il proprio tempo libero a questa cosa e facendo frutto delle proprie esperienze, hanno individuato delle risposte molto più alte di quelle che persone con scarse competenze, magari perché nominate per via politica, sono riuscite a darci in questi anni. Io non avevo detto assolutamente niente. Ma niente proprio. È Arturo che mi ha fatto parlare. Ci troviamo a Place Clichy. Era dopo pranzo. E ci accorgiamo che non c'era nessuno per le strade. A causa del caldo, no? Niente vetture, nulla. Ma perché non basta quello che si fa per lo spettacolo? Ma anche lì non è quello che esaurisce la questione. Innanzitutto trovo veramente assurdo il fatto che debba essere riesserci il FUS prendendo i soldi dalla benzina. Penso che l'unico motivo sia quello di voler far inimicare agli italiani chi fa il mio mestiere, insomma, come se non avessero già fatto abbastanza in questa direzione, no? Facendoci passare per un mondo aureo dove siamo tutti bene e pensiamo solo ai vestiti o alle cose di questo tipo, insomma. Per esempio in Francia hanno aumentato pagato il biglietto di un euro per i film americani, quindi appunto per quei film di intrattenimento che la gente andrebbe già a vedere a qualsiasi costo, e quindi e per finanziare invece il cinema francese. Quindi basta, ci sono tantissimi modi per finanziare il cinema. Anche c'è per esempio l'IMAIE, che sono 2 anni che è chiusa, che sarebbe l'ente che restituisce le quote spettanti dai diritti di interpretazione di un'opera, che è stata chiusa con all'attivo 210 milioni di euro, quindi già solo quella bastava in realtà a far fare non so quanti film, invece quella è stata estinta, non si capisce più adesso questi soldi che spettano agli attori, che fine fanno e da chi sono, dove sono andati a finire. E la cosa realmente necessaria che servirebbe in Italia è una considerazione di chi fa questo mestiere, cioè di strutture, perché siamo completamente deregolamentati, cioè chi fa mestieri artistici in Italia non ha nessuna forma giuridica alla quale appellarsi, è una cosa assolutamente italiana. Non c'è non abbiamo un protocollo economico, cioè nel senso l'attore non è una categoria, non abbiamo una legge quadro che determina gli orari o come dobbiamo essere pagati o come dobbiamo pagare noi con le fatture, le cose, siamo accorpati a gente che fa altri mestieri, e quindi secondo me la prima cosa sarebbe quella di individuare delle regole per eliminare questa precarietà devastante, che poi fa sì che le persone vengano umiliate perché non hanno una professionalità riconosciuta, non c'è un albo professionale, non c'è una struttura appunto di tutela del lavoratore dello spettacolo. Secondo me è facile mettere soldi, no? È più difficile regolamentare le cose, però forse la strada più difficile è quella più duratura. Mentre i soldi l'anno prossimo sono esauriti, non si sa chi li avrà presi e come, e i problemi rimarranno. La nostra voce in scena di oggi era quella di Elio Germano. Ci ritroviamo domani con un nuovo appuntamento. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.